1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, le 7:19 minuti, belli, pimpanti e freschi, cari ascoltatori. Siamo qui per la rassegna stampa di 24 mattino e per ricordare che oggi parleremo del caso Cancellieri, torneremo su questa vicenda politica che rischia certamente di spaccare il Partito Democratico. Certamente non è finita, si vocifera e si parla, almeno a raccontare dai giornali, di possibili dimissioni anche della stessa ministro Anna Maria Cancellieri nella giornata di oggi, se non otterrà un sostegno pieno in vista del voto di domani. Domani c'è la mozione di sfiducia che si discuterà nei suoi confronti dopo le telefonate, il caso Ligresti, e oggi ci sono questi sviluppi, ma ci sono tante altre notizie dai giornali. Avremo ospite per quel che riguarda la vicenda Cancellieri, oltre a Gianni Dragoni, giornalista del Sole 24 Ore, che ha scritto un ebook dal titolo Ligresti Story. Avremo ospite Paola Taverna, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, e il senatore Miguel Gotor del Partito Democratico. Questo alle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. È martedì 19 novembre. Intanto i titoli di prima pagina. Il Sole 24 Ore apre su tagli di spesa per 32 miliardi in 3 anni. Questa è l'apertura che sarà anche il primo tema che toccheremo in rassegna stampa, vale a dire il piano Cottarelli. Poi le aperture sono diversificate. Il Corriere della Sera sceglie la tragedia in Sardegna. Alluvione in Sardegna è una strage. Avete sentito nel giornale radio, sono già 12 le vittime accertate. Repubblica, Cancellieri, l'inchiesta passa a Roma. Il Fatto Quotidiano, Napolitano a gamba tesa, Cancellieri non si tocca. La Stampa, Cancellieri battaglia nel PD. Mentre Libero, rapina di Natale nei conti in banca, c'è una patrimoniale sui risparmi nella legge di stabilità, aumenta l'imposta di bollo, un salasso peggiore di quello di Amato nel 92. Questo è l'allarme lanciato da Libero. Poi un aspetto della spending review del commissario Cottarelli è il titolo sia del Messaggero: statali, piano per la mobilità, e anche il Secolo XIX, mobilità anche per gli statali. Per Avvenire l'apertura è sul caso Cancellieri, procura e colle sminano il caso Cancellieri, mentre invece il giornale 11 si prende il PC, cioè la vicenda Renzi, raccontata anche dall'Unità. Renzi vince il primo round e dal Manifesto vittoria sinistra, la vittoria di Matteo Renzi secondo il Manifesto. Io voglio partire proprio da questa cifra. Allora, cari italiani, spesso si dice non si fa, non si taglia, non si agisce. Allora adesso abbiamo una cifra, il piano Cottarelli, neocommissario per la spending review, legacy riduzione della spesa pubblica, che è di 800 miliardi in Italia all'anno, ricordiamolo. E ovviamente una parte per le pensioni, una parte per gli stipendi pubblici, quindi non è che tutto è aggredibile, ma insomma il piano Cottarelli prevede questa cifra, tagli di spesa in 3 anni per 32 miliardi. Tutti i dettagli sono raccontati da Marco Rogari sul Sole 24 Ore a pagina 3. 2 punti di PIL in 3 anni, in soldoni 32 miliardi tra il 2014 e il 2016, circa il triplo di quanto fin qui indicato dalla legge di stabilità all'esame del Senato. Questo è l'obiettivo massimo di riduzione di spesa fissato dal comitato interministeriale presieduto dal premier Enrico Letta, che ha esaminato il programma messo a punto dal commissario straordinario Cottarelli. Che cosa c'è di interventi a vasto raggio, dal personale pubblico affrontando i temi della mobilità, ed ecco per questo i titoli anche di apertura del Messaggero del Secolo XIX, gli acquisti di beni e servizi, l'utilizzo dei costi standard, la dimensione delle scuole, sanità, società partecipate, incluso la RAI, Invitalia, il poligrafico dello Stato, insomma un piano molto molto ampio, tanto che La Stampa si concentra con Alessandro Barbera a pagina 9 con una disamina ancora più dettagliata sui punti sui quali interverrebbe Cottarelli. Il titolo dell'articolo è Risparmi su tutto, dai grandi appalti alle cure termali, racconta La Stampa. Per la revisione ci saranno 76 gruppi di lavoro che si concentreranno sulle cose anche più strane. Per esempio, racconta Barbera, c'è un gruppo di lavoro sulle cure termali dei militari, che evidentemente costano più dei benefici che arrecano ai nostri generali. C'è un piano di lavoro sull'ACI, sulla motorizzazione civile, due enti che da sempre fanno la stessa cosa, ma nessun governo ha mai osato fondere. Alzi la mano poi chi conosce la differenza che corre tra capitaneria di porto, guardia costiera e autorità portuali. Un gruppo si occuperà anche di loro. E ancora, ci sarà un gruppo sulla revisione delle centrali appaltanti, dei provveditorati e delle opere pubbliche. C'è un gruppo sul coordinamento tra militari e forze di polizia, tra gli archivi di Stato, le scuole di formazione, un gruppo che si occuperà degli enti lirici, gli enti di ricerca, gli enti fiera. Insomma, scrive La Stampa, Cottarelli sembra proprio destinato e deciso a fare sul serio. Alle infrastrutture qualcuno si occuperà di cercare gli sprechi che si annidano nelle oscure gestioni governative. Per esempio, l'intoccabile voce Ferrovie dello Stato, che vale ogni anno 5 miliardi di trasferimenti all'azienda. E nessuno al di fuori dei suoi vertici sa come vengano spesi questi fondi, da soli sufficienti a finanziare una riforma degli ammortizzatori sociali in Danimarca. Restano invece fuori dai gruppi di lavoro voluti da Cottarelli tutti quegli organi di rilievo costituzionale: Parlamento, Corte Costituzionale, Banca d'Italia. Qui, cari ascoltatori, l'abbiamo detto tante volte, non è voglia di non toccare questi apparati, è che hanno una autonomia istituzionale. Per decidere i tagli eventuali a Camera e Senato devono decidere i parlamentari stessi. E poi restano escluse anche da questo, e qui è l'aspetto più misterioso, auto blu e consulenze. Curiosa, scrive La Stampa, la motivazione adotta nel documento per tenere fuori auto blu e consulenze è questa: alcuni temi trasversali verranno sviluppati direttamente dal gruppo di base perché non abbastanza complessi da giustificare la creazione di gruppi di lavoro. Ma mi sembra una giustificazione, racconta La Stampa, il cui sospetto è che il tema sia troppo sensibile per essere trattato direttamente in enti e ministeri. Dunque non si occuperanno i gruppi di lavoro di auto blu e consulenze, ma di tante altre cose. La mobilità degli statali è già un qualcosa che, ripeto, fa titolare Il Messaggero e il Secolo XIX. Il Secolo XIX mette già a pagina 3 Genova subito a rischio, 200 dipendenti dell'ASL, effetto combinato con i tagli annunciati nel 2014 anche ai fondi per la sanità. Ed è, diciamo, questa una delle ipotesi. C'è da dire che per tagliare, per recuperare soldi, si prevede anche, per carità, io aggiungo questo aggettivo, l'ennesimo annuncio piano per le privatizzazioni. Enrico Letta lo ha annunciato nei prossimi giorni, le privatizzazioni. Non è la prima volta, io in 43 anni che sento questa parola, da quando ho contezza e capisco qualcosa di questi temi un po' complicati, però pare che ci sia un nuovo annuncio di privatizzazioni. E allora, Francesco Giavazzi, in prima pagina del Corriere, fa in questo editoriale in qualche modo già un ammonimento preventivo. Il titolo è Privatizzare un po' per finta, questo è il titolo dell'editoriale. Scrive Giavazzi, incalzato dalle critiche di Bruxelles alla legge di stabilità, il Presidente del Consiglio ha annunciato nei prossimi giorni un programma di privatizzazioni. Sulle cessioni di aziende pubbliche vorremmo chiedere un impegno, scrive Giavazzi, che non si chiami privatizzazione il trasferimento della proprietà di un'impresa alla Cassa Depositi e Prestiti, una società della quale lo Stato possiede l'80% del capitale. Così è accaduto per quote di Eni, Enel, Terna, Snam, Sace, Simest, Fintecnica, Fintecna a saldo energia. Non è solo una questione contabile, trasferire la proprietà di un'azienda pubblica dallo Stato alla Cassa Depositi e Prestiti è un modo per non privatizzarla mai. La cassa è posseduta per il 18% inoltre dalle fondazioni bancarie. Trasferendo un'azienda dallo Stato alla cassa, si dà a quegli enti un diritto di veto o comunque di interferenza nelle privatizzazioni. Non si vede perché. E poi racconta Giavazzi, ci sono migliaia di aziende pubbliche di proprietà di regioni, comune, province. Secondo il censimento di Alberto Rioli sul Sole 24 Ore erano circa 8.000 con un numero di 19.000 amministratori. Finché quelle aziende rimarranno pubbliche, i loro costi ricadranno, almeno in parte, sulle nostre tasse. L'unica soluzione è venderle, perché la raccolta dei rifiuti deve essere affidata a un'impresa del comune, con il risultato che gli addetti sono dipendenti pubblici e quindi di fatto inamovibili, si chiede Giavazzi. E dunque privatizzazione e spending review sono strettamente collegate, perché non si può ridurre significativamente la spesa se prima non si riduce lo spazio che lo Stato occupa nell'economia. Questo Francesco Giavazzi, prima pagina del Corriere, privatizzare un po' per finta. E insomma, quando sentirete l'annuncio delle privatizzazioni di Enrico Letta, magari date una scorsa a questo editoriale e mettete insieme le due cose. Ci fermiamo qui per la pubblicità qualche minuto, poi riprendiamo dall'attualità politica, caso Cancellieri in primo piano, tra poco. 24 mattino. Quando sono le 7:34 minuti, allora nuovamente in diretta il caso Cancellieri, di cui ci occuperemo poi approfonditamente alle 8:15, il tema politico del giorno, oltre alla vittoria di Matteo Renzi nei circoli del PD e dunque una vittoria che si profila alla segreteria, alla corsa della segreteria del Partito Democratico. Ma il caso Cancellieri, allora, ieri la notizia che potrebbe essere positiva per gli sviluppi, per il ministro della giustizia, è che a Torino non c'è nessun indagato, dunque non è indagata Anna Maria Cancellieri sull'ipotesi di cui si era vociferato, cioè di avere mentito nell'interrogatorio sui contatti con la famiglia Ligresti. Dopodiché gli atti sono stati inviati a Roma per competenza, visto che è ministro, e dunque potrebbe esserci anche una valutazione diversa e poi un'apertura di fascicolo a Roma. Però nonostante questa notizia positiva, cioè non è indagata, la posizione di Anna Maria Cancellieri, almeno a leggere i giornali, è tutt'altro che tranquilla. Perché? Perché adesso si è aperto un dibattito all'interno del Partito Democratico, che è il partito più spaccato su questo, e vedremo qualche titolo di giornale, e quindi Anna Maria Cancellieri dice: se non avrò un sostegno pieno dal Partito Democratico, sono pronta a farmi da parte. Questo in pratica si evince dai giornali. Cancellieri, atti inviati a Roma, così Filomena Greco sul Sole 24 Ore, a pagina 6, il ministro non è indagato ma è stato aperto un fascicolo per approfondimenti. C'è stato anche l'intervento di Giorgio Napolitano, che ha apprezzato in una nota la chiarezza e il rigore delle decisioni, delle precisazioni venute da Torino, tanto che questa nota è stata impallinata dal Fatto Quotidiano, che è un po' una battaglia aperta con il capo dello Stato, con il titolo di prima pagina Napolitano a gamba tesa, Cancellieri non si tocca, cioè ha tradotto questa nota del Quirinale come dire chiarezza e rigore, non toccate Anna Maria Cancellieri. Ma sta di fatto che nei retroscena, appunto, basta vedere, non so, Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera, appoggio pieno o dimissioni, il ministro prepara il discorso, è appesa alle decisioni del Partito Democratico e ne è consapevole, così racconta Fiorenza Sarzanini. Per questo Anna Maria Cancellieri prepara il discorso che dovrà pronunciare domani alla Camera, lasciando in sospeso la conclusione. La decisione è presa: se prima dell'arrivo a Montecitorio non avrà la garanzia di un appoggio pieno da parte del PD, presenterà le dimissioni e i motivi li spiegherà proprio in aula, sottolineando come nel caso che mi riguarda non c'è alcuna questione giudiziaria ma solo un accanimento politico che mi ha portato sino a qui. Dunque, ieri, dopo una giornata di contatti con il Quirinale, la conferma dell'appoggio pieno, la telefonata anche con Angelino Alfano, dunque con il nuovo centrodestra che si è separato da Berlusconi, e l'appoggio pieno anche da parte di Alfano. Nonostante la sorpresa e la posizione che maggiormente l'ha delusa è quella di Mario Monti, che l'aveva voluta come ministro all'interno nel suo governo e adesso non si sbilancia sul voto in Parlamento, ci tiene anzi a sottolineare l'inopportunità di certe telefonate. Ecco, nonostante tutto questo, Anna Maria Cancellieri dice è pronta a offrire le dimissioni se non c'è un appoggio pieno. Secondo Repubblica addirittura queste dimissioni sarebbero quasi scontate. Il pressing del PD per le dimissioni del ministro, racconta Francesco Bei nel suo retroscena di Repubblica che apre in prima pagina, la base del PD ribolle e allora solo un intervento diretto, forte, esplicito di Enrico Letta all'assemblea del gruppo PD questa sera alle 20:15 può evitare che il ministro Cancellieri lasci il governo. La base parlamentare del Partito Democratico è in rivolta, scrive Repubblica. La base non accetta, come dice un deputato renziano, di ingoiare l'ennesimo rospo per fare un favore a Napolitano. Stavolta il malumore è direttamente esplicito contro il Quirinale, visto come l'ultimo baluardo a difesa del guardasigilli. Fanno sapere in ambienti del PD, perfino Monti ha detto che la Cancellieri si deve dimettere e noi la dovremmo difendere da soli? Insomma, scrive Repubblica, se il PD oggi salva la Cancellieri, sfiducia Renzi, che ha detto si deve dimettere e che è in pratica già il prossimo segretario in pectore del PD. Se al contrario il PD si schiera contro il ministro, a essere sfiduciato sarà Letta, presidente del Consiglio. Da questo cul-de-sac se ne esce soltanto con un gesto di responsabilità da parte dell'interessata. Insomma, la speranza intima del PD, secondo Repubblica, è che sia la stessa Cancellieri a fare un passo indietro. Per il giornale, guardate i titoli, Cancellieri isolata, l'addio è a un passo, il giornale titola pagina 4, mentre il PD ribolle, Letta costretto a mediare, questo è il titolo del Corriere a pagina 5. Anche La Stampa, pagina 3, Letta preme sul PD no alla sfiducia, ma la tensione nel partito resta alta. E anche il Fatto Quotidiano, PD diviso, Cancellieri rischia. Insomma, vedete che i titoli danno per più certa che meno certa l'ipotesi di dimissione di Anna Maria Cancellieri, perché altrimenti la situazione rischia di degenerare a livello politico. Ieri tra l'altro Renzi ha vinto nei circoli, sono stati resi note le votazioni per la candidatura, un po' complessa nel meccanismo, per la segreteria del partito l'8 dicembre. Renzi ha vinto con il 46,7% degli iscritti davanti a Gianni Cuperlo, cioè il candidato di D'Alema, con il 38,4% e a Pippo Civati terzo col 9,19%. Il quarto candidato Gianni Pittella, essendo arrivato quarto, è escluso dalla corsa all'8 dicembre, quindi rimangono in corsa in tre. E tra l'altro ieri sono volati gli stracci, avete sentito Massimo D'Alema dire Renzi è ignorante, l'abbiamo fatto sentire alle 6:30, noi abbiamo vinto due volte, era ad Agorà su Rai 3, abbiamo portato la sinistra al governo, da questo punto di vista Renzi è ignorante, spiritoso ma mente, ha messo insieme un parterre de roi da Briatore, De Benedetti, con anche qualche palafreniere. Insomma, Massimo D'Alema, che racconta il Corriere della Sera in un retroscena firma Maria Teresa Meli a pagina 7, che è agguerritissimo. Se è la guerra che vuole, la avrà. Così avrebbe detto Massimo D'Alema ai suoi. Sono stato aggredito da quello lì e non sono nemmeno il candidato. Che c'entro io? Sono l'unico a essere menato. E allora dove erano i Veltroni, Prodi, Fassino? Eppure sono sempre quello che viene attaccato. Insomma, Massimo D'Alema proprio l'ha giurata a Matteo Renzi e pare che abbia rispolverato una vecchia di battuta di Marx, che diceva la felicità è la lotta e io non ci rinuncio. E dunque ne vedremo forse delle belle o delle brutte nello scontro D'Alema-Renzi. Questo anche nel retroscena, nel racconto di Filippo Ceccarelli dalla prima pagina di Repubblica, mette insieme un po' tutti questi mesi difficili. Massimo e Matteo, i carissimi nemici, la guerra dei nervi tra battute e veleni. L'ultima di D'Alema è stata che farà Renzi se sono in pochi a votare nel PD? Farà smontare il gazebo a Briatore? mentre di recente Renzi aveva fatto questa battuta, pretende che io lo chiami sempre Buona Zibadrone, così Renzi di Massimo D'Alema. Vabbè, il clima è questo. Nervi a fior di pelle, anche un po' nel centrodestra, dove la notizia più interessante del giorno è questa: i nuovi volti di Forza Italia, che starebbe valutando lo stesso Silvio Berlusconi in persona. Ieri a Villa Gernetto all'ESMO ha parlato per 2 ore, ha incontrato le nuove leve di Forza Italia, rilanciare Forza Italia. Pare che tra i promossi ci sia Alessandro Cattaneo, sindaco di Pavia, almeno lo leggo nel retroscena di Ugo Magri sulla Stampa, oppure Osvaldo Napoli, polemista spiritoso e aggressivo, oppure Federica Guidi, imprenditrice. Insomma, sono i nuovi volti che Berlusconi vede bene per andare in TV. Vabbè, io voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno Alessandro, stavo sentendo appunto tutte queste liti, pensavo che sì, noi tempestivamente oggi proponiamo insieme al quotidiano il quaderno dell'esperto risponde, sai che ogni martedì c'è questa certo, raccolta di quesiti, pensa oggi è dedicato alle liti. Oh, vi siete quindi ispirati a che cosa? No, figurati, parliamo dei liti, delle liti con i vicini, con il vicinato, con la pubblica amministrazione, sai, quando uno c'è il vicino rumoroso, quello che ti mette lo stereo a tutto volume durante la notte, eccetera. Però stavo guardando se tra i vari quesiti, siccome ci sono più di un centinaio di risposte, eccetera, ci fosse qualche cosa anche su partiti, come dire, in dissoluzione o comunque in fibrillazione, sono, come quelli di cui parlavi tu. Liti irrisolvibili, credo quelle, più o meno. Non lo so, stavo finendo di guardare, non escludo che ci sia qualcosa, ecco, però più seriamente, insomma, ci sono invece una serie di indicazioni per appunto una serie di risposte agli esperti, per le liti più comuni, insomma, di solito, diciamo, alla grande maggioranza di noi non capita di certo, litigare per la segreteria di un partito. Ovviamente ci siamo concentrati più su altre Mauro, cose. Abbiamo parlato di questo ambizioso piano Cottarelli, 32 miliardi in 3 anni, che il Sole ovviamente dettaglia. C'è la vicenda anche dell'IMU, finalmente pare siamo arrivati ad una, come dire, alla quadra, esatto. Ma sì, sembra di sì, adesso vediamo se tutto prende corpo. Tu i 2 euro li avevi per caso messi sempre in dossier titoli? No, io li ho sempre in tasca. I 2 euro che hai da parte? No, ma sono sempre in tasca, non ho capito perché. Finché li tieni in tasca, vabbè, però così non fai girare l'economia. Vabbè. E poi allora si è trovata un po' questa cosa per cui l'ultima pezza, di là di aumenti degli acconti e tecnicalità che spiega molto bene Marco Mobili oggi sul Sole, e alla lettura del quale ti rimando, la sostanza è che ci sarà una sorta di anticipo nel versamento delle imposte sui guadagni delle vendite di azioni, di titoli, appunto di investimenti in genere. Di solito si doveva pagare con 2 mesi di ritardo, si pagherà invece, diciamo, molto prima, si era già nel 2013. Questa sarebbe la quadra provata per appunto cancellare, superare definitivamente l'IMU. Vediamo se poi il tutto tiene in un provvedimento normativo che, come dire, abbiamo sempre abbiamo ancora da vedere. Sì, ecco. Sì, e questo si vedrà nei prossimi giorni. Mauro, io ti ringrazio, grazie a Mauro Meazza, ci troviamo ovviamente domani, risponde l'ascoltatore che dice ma come non date notizie sulla Sardegna? Le do subito dopo il traffico, la lettura dei giornali, le ha appena date il giornale radio, quindi insomma dai, un pochino di attenzione, almeno un pochino di attenzione, altrimenti poi dopo ci arrabbiamo. Dai, tra poco. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, finalmente riemersi dopo un traffico un po' lungo e un po' infarcito di pubblicità. La Sardegna, la situazione della Sardegna: crollano i ponti, strage in Sardegna, 9 vittime travolte dall'acqua. Ma chiaramente questi sono i titoli che sono superati purtroppo dalla cronaca, nel senso che questo è il titolo del Corriere della Sera. Quando hanno chiuso i giornali, in realtà le vittime accertate sono 12 già. come abbiamo sentito nel giornale radio, scrive il Corriere poco prima di mezzanotte, appunto, si parla di 9 vite portate via, trombe d'aria, torrenti esondati, case distrutte, paesi isolati. Questi gli effetti del tifone Cleopatra che si è abbattuto seminando terrore e distruzione. Tra l'altro alle 6:45 avevamo in onda il sindaco di Huras, una delle zone più colpite, dove c'è una vittima accertata anche per il Messaggero. Il ciclone Cleopatra sulla Sardegna, 6 vittime, ma di questo ovviamente vi rimando durante il corso della giornata ai continui aggiornamenti che ci saranno. Credo che la giornale radio abbiano sentito anche il governatore della Sardegna Cappellacci, dunque nel giornale radio delle 8 verrà mandata in onda l'intervista. Mentre per quel che riguarda le altre notizie di cronaca, vi segnalo la questione del concorsone. Ma in Italia non riusciamo a fare neanche i concorsi, hanno fatto un concorso a Roma, sono venuti da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, sono venuti per protestare, racconta il Corriere, i candidati vincitori idonei al maxi concorso per 1.995 posti con 20.000 partecipanti indetto nel 2010 dal Comune di Roma, dalla Giunta Alemanna. 22 le figure professionali richieste: bibliotecari, amministrativi, dietisti, storici dell'arte, archeologi, vigili urbani, statistici. Si sono radunate a Capitale perché questo maxi concorso è stato in qualche modo, per il momento, non dico annullato, ma sospeso, perché dalle buste pare che in controluce si potessero leggere i nomi dei candidati. Eccolo qui allora il titolo del Corriere: concorsone, gli atti ai PM non siamo raccomandati, protestano coloro che hanno vinto. Ma il vice sindaco Nieri dice: sono state usate 2 buste diverse. E anche per il Messaggero: Roma è caos sul concorsone, ora non verrà annullato, ma gli atti sono trasferiti e trasmessi alla procura, perché il Campidoglio dice: sono state riscontrate molte irregolarità. Vabbè, voglio chiudere con 2 cose. C'è un mistero a Milano, racconta Libero, e riguarda la storia di un magistrato di cui non si fa il nome, ma la notizia viene data da giustiziami.it, sito gestito da esperti giornalisti giudiziari. Che è successo? Un giudice a Milano, di cui non si sa il nome, sarebbe stato condannato, è stato condannato perché beccato ubriaco in bicicletta sul marciapiede. E chi è? Fate subito il nome, il giudice, il mistero del giudice di Milano beccato ubriaco in bicicletta sul marciapiede. È stato mandato per competenza a Brescia, è stato assolto, ma lui, pensate, ha chiesto opponendosi l'imputazione coatta, cioè processatemi, ed è stato condannato. 2 mesi di carcere e sanzione amministrativa di 800 euro. Girava in bicicletta ubriaco sul marciapiedi. Caro giudice di Milano, caro magistrato, chi sei? Esci allo scoperto. Intanto voglio chiudere, siamo alla chiusura. L'articolo più inutile scovato sui giornali è quello solito: la carta costa. Una pagina del Corriere della Sera che clamorosamente mi sono perso, no? Però la posso raccontare. Una pagina del Corriere della Sera firma Fabio Cavalera, che racconta il dramma dei giudici inglesi che fanno che cosa? Si vendono le parrucche. Le sapete quelle parrucche medievali con le quali sono veramente ridicole all'infinito, si presentano perché questo prevede la legge, si presentano con quelle parrucche, ma adesso sono in crisi, la spending review, gli stipendi che non vanno bene, e allora questi giudici, hanno trovato il Times, fanno gli annunci e si vendono queste parrucche che valgono fino a 2.300 euro. Il Corriere della Sera ci fa una pagina intera: le parrucche dei giudici inglesi in vendita. Mamma mia, ecco, i miei 2 urini per queste parrucche, devo dire, non li metterò a disposizione. Vabbè, è tempo di giornale radio, rientriamo subito dopo, parliamo del caso Cancelliere.